Terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nella scorsa puntata abbiamo letto la scena magnifica in cui, attorno al letto di morte del conte Bezukhov, si scatena la lotta per l'eredità, che viene vinta dalla principessa Drubetskaya a favore di Pierre. La principessa naturalmente si prodiga tanto perché sa che da Pierre otterrà per il proprio figlio Boris ben più di quanto otterrebbe dalle nipoti del conte. A Lysia Gori, la proprietà del principe Nikolai Andreevich Balkonsky, si aspettava di giorno in giorno l'arrivo del giovane Andrei con la principessa, ma l'attesa non turbava l'ordine armonioso secondo il quale la vita si svolgeva nella casa. Il generale in capo principe Nikolai Andreevich, soprannominato in società Le Roi de Prusse, da quando, sotto Paolo, era stato esiliato nella sua tenuta, era vissuto senza mai muoversi da Lysia Gori, con la figlia Maria e la sua dama di compagnia, Mademoiselle Bourienne. Il giorno dell'arrivo dei giovani, la mattina, come al solito, la principessina Maria traversò all'ora stabilita l'anticamera per dare il saluto mattutino al padre, e con timore si segnò e recitò dentro di sé una preghiera. Ogni giorno traversava quella stanza e ogni giorno pregava perché l'incontro quotidiano andasse bene. Dietro alla porta si sentiva il rumore monotono del tornio. La principessina spinse timidamente la porta, che s'apriva con facilità e prontezza, e si fermò sulla soglia. Il principe lavorava al tornio e, dopo essersi voltato, seguitò le sue faccende. L'immenso studio era pieno di oggetti che, evidentemente, erano usati di continuo. «Stai bene? Su, mettiti a sedere». Egli prese il quaderno di geometria, scritto di sua mano, e avvicinò col piede la poltrona. La principessina si chinò sopra il quaderno aperto sulla tavola. «Aspetta, c'è una lettera per te», disse a un tratto il vecchio. Il viso della principessina, alla vista della lettera, si coprì di macchie rosse. La prese in fretta e vi si chinò su. «Di Eloisa?» domandò il principe, mostrando in un freddo sorriso i denti giallognoli, ancora robusti. «Sì, di Julie», disse la principessina con un timido sorriso. «Lascerò passare ancora due lettere, ma la terza la leggerò», disse severamente il principe. «Ho paura che vi scriviate molte sciocchezze. La terza la leggerò». «Leggete pure questa, mon père», rispose la principessina, arrossendo ancora di più. «La terza! Ho detto la terza!» gridò brevemente il principe, respingendo la lettera, e, appoggiato il gomito alla tavola, avvicinò a sé il quaderno con le figure geometriche. «Su, signorina, su!» «Signorina, questi triangoli sono simili. Guarda, l'angolo ABC...» La principessina guardava con spavento gli occhi del padre. Non capiva nulla e aveva tanta paura che la paura stessa le impediva di capire tutte le ulteriori spiegazioni del padre, per quanto chiare potessero essere. Fosse colpa del maestro o della scolara, fatto sta che ogni giorno si ripeteva la medesima cosa. Alla principessina si oscuravano gli occhi. Ella non vedeva più nulla, non udiva più nulla, sentiva soltanto vicino a sé il viso magro del padre severo, ne sentiva il respiro e l'odore, e pensava solamente al modo di poter uscire al più presto dallo studio e in camera sua capire a suo agio il problema. La principessina sbagliò la risposta. «È impossibile, principessina, è impossibile! La matematica è una gran cosa, signora mia, e io non voglio che tu sia come le nostre stupide ragazze. Persevera e finirai per amarla». E le diede un colpetto con la mano sulla guancia. «La grullaggine ti andrà via di capo!» La principessina Maria ritornò nella sua camera con quell'espressione triste e spaventata che di rado l'abbandonava e che rendeva il suo viso non bello e malaticcio ancora meno bello, e sedette alla sua scrivania ornata di ritratti a miniatura, ingombra di quaderni e di libri. La principessina era tanto disordinata quanto era ordinato suo padre. Ella mise a posto il quaderno di geometria e disuggellò con impazienza la lettera. La lettera era della più intima amica d'infanzia della principessina, e questa amica era quella stessa Julie Karagina che era dai Rostov il giorno dell'onomastico. La lettera dell'amica della principessina Maria descrive la situazione di una città, Mosca, che si prepara alla guerra. In particolare Julie è addolorata per la partenza del giovane Nikolai Rostov. Poi passa a parlare della morte del conte Bezukhov e della sua eredità, che è andata al giovane Pierre. che ora diventa dunque conte legittimo e possessore di una delle più belle fortune di Russia. Di conseguenza Pierre è diventato uno dei partiti più ambiti di Mosca. E a proposito di matrimoni, Julie informa l'amica di un progetto che la riguarda. Il figlio del principe Vassili, Anatole, molto bello e pessimo soggetto, sembra orientato a cercare una moglie ricca e si mormora che la scelta dei genitori si stia appuntando proprio sulla principessina Maria. Subito la principessina Maria si mette a scrivere una risposta nella quale illustra la sua disponibilità ad accettare come un dono di Dio l'eventuale matrimonio. Il cameriere dai capelli grigi stava seduto dormicchiando e tendendo l'orecchio al russare del principe nell'enorme studio. In quel momento giunsero davanti alla porta d'entrata una carrozza e un calesse, e dalla carrozza uscì il principe Andrei, che fece scendere la sua piccola moglie e la fece passare innanzi. La piccola principessa era ingrassata negli ultimi tempi, ma gli occhi e il labbruzzo corto, guarnito di baffettini e sorridente, si sollevarono con la stessa gaiezza e grazia quando prese a parlare. «Messe Tempalé?» disse al marito, guardandosi in giro con l'espressione con cui si fanno le lodi di un ballo a un padrone di casa. «È Maria che si esercita? Piano, piano, dobbiamo sorprenderla!» Il principe Andrei la seguiva con un'espressione triste e cortese. Si avvicinarono alla porta del salone di dove giungeva il pezzo di musica ripetuto senza fine. Il principe Andrei si fermò e aggrottò le sopracciglia, come se attendesse qualcosa di spiacevole. La principessa entrò. Il pezzo fu troncato a mezzo. Si udì un grido, il passo pesante della principessina Maria e un rumore di baci. Quando il principe entrò, la principessa e la principessina, che soltanto una volta e per breve tempo s'erano vedute al matrimonio del principe Andrei, si tenevano per le mani e si baciavano forte. Mademoiselle Bourienne stava in piedi accanto a loro, premendosi una mano sul cuore e sorridendo untuosamente, pronta, si vedeva, sia al pianto che al riso. Il principe Andrei si strinse nelle spalle. Si aggrottò, come fanno gli amatori di musica quando sentono una nota falsa. Le due donne si allontanarono e poi, come temendo di perder tempo, si presero la mano a vicenda e ricominciarono a baciarsi e a stringersi le mani. E poi tornarono a baciarsi in viso e, cosa del tutto inattesa per il principe Andrei, tutte e due scoppiarono a piangere e si baciarono un'altra volta. La principessina Maria si voltò verso il fratello e attraverso le lacrime, lo sguardo affettuoso, caldo e dolce dei suoi occhi, in quel momento bellissimi, grandi e luminosi, si fissò sul viso del principe Andrei. «E tu andrai proprio alla guerra, André?» disse sospirando. Anche Lise sospirò. «Domani stesso», rispose il fratello. Quando furono passati i 20 minuti che mancavano al momento in cui si svegliava il vecchio principe, il cameriere venne a chiamare il giovane principe perché andasse dal padre. «Ah, guerriero, vuoi vincere Bonaparte?» disse il vecchio. «Piglialo di petto almeno tu, se no fra poco metterà anche noi fra i suoi sudditi. Benvenuto!» E gli presentò la guancia. Il vecchio si trovava in una buona disposizione d'animo dopo il suo sonnellino fatto prima del pranzo. Volse allegramente il capo per guardare il figlio di sotto alle folte sopracciglia spioventi. Il principe Andrei si accostò e baciò il padre nel punto indicato. Non rispose nulla sul tema favorito del padre, i motteggi sui militari d'oggi e specialmente su Bonaparte. «Sì, sono venuto da voi, babbo, e con mia moglie incinta», disse il principe Andrei. «L'appartamento per tua moglie è pronto. La principessina Maria la condurrà e glielo mostrerà ed empiranno 3 panieri di chiacchiere. Questo è affare di donne. Sono contento di vederla. Siediti, racconta. Che farà l'armata del sud? La Prussia, la neutralità, lo so, lo so. E l'Austria? E la Svezia? Come traverseranno la Pomerania?» Il principe Andrei, vedendo l'insistenza del padre, da principio di malavoglia, poi animandosi sempre più e passando per abitudine e senza accorgersene a mezzo del racconto dal russo al francese, cominciò a esporre il piano di operazioni della campagna progettata. Il vecchio principe non dimostrava il minimo interesse al racconto, come se non l'udisse. «Non dico che questo sia un piano che io approvo», disse Andrei. «Vi ho solo raccontato quel che c'è. Napoleone ha già stabilito un piano che vale quanto questo». «Beh, non mi hai detto niente di nuovo», e il vecchio, pensieroso, proferì rapidamente fra sé. «Sa Dio quando ritornerà. Vai, vai in sala da pranzo». Allora stabilita, incipriato e raso, il principe entrò nella sala da pranzo, dove l'aspettavano la nuora, la principessa Maria, Mademoiselle Bourienne e l'architetto del principe, che per uno strano capriccio era ammesso a tavola, benché per la propria condizione quest'uomo oscuro non potesse punto pretendere un tale onore. Il grande orologio a muro suonò le due, e un altro nel salotto rispose con la sua vocina esile. Il principe si fermò. Di sotto alle folte sopracciglia spioventi, gli occhi severi, animati e lucenti, guardavano tutti e si arrestarono sulla giovane principessa. Questa provava intanto quel sentimento che provavano i cortigiani al giungere del sovrano, sentimento di timore e di rispetto che quel vecchio suscitava in quanti lo avvicinavano. Egli carezzò la principessa sul capo e poi, con gesto impacciato, le batté leggermente la mano sulla nuca. «Son contento, son contento», disse. E di nuovo la guardò fisso negli occhi. Poi si allontanò rapidamente e andò a sedere al suo posto. «Sedete, sedete». Egli indicò alla nuora il posto accanto a sé. «Oh!» disse il vecchio, guardando la sua vita arrotondata. «Vi siete troppo affrettata, non va bene!» E rise, di quel riso secco, freddo, antipatico, del quale rideva sempre, con la sola bocca e non con gli occhi. Le domandò di suo padre e la principessa cominciò a parlare e a sorridere. Le domandò poi di alcune comuni conoscenze. La principessa si animò ancora di più e si mise a raccontare, riferendo al principe i saluti e i pettegolezzi della città. Ma a misura che ella si animava, il principe la guardava più severamente e a un tratto, come se l'avesse studiata abbastanza e si fosse oramai fatto di lei un concetto chiaro, le voltò le spalle e si rivolse all'architetto. «Lui è il mio gran tattico», disse il principe al figlio, indicando l'architetto. E il discorso si aggirò di nuovo intorno alla guerra, a Bonaparte, ai generali del giorno e agli uomini di Stato. Il vecchio principe pareva persuaso che in Europa non ci fosse nessuna complicazione politica. Non ci fosse la guerra, ma una specie di commedia di burattini, nella quale recitavano gli uomini del giorno, fingendo di fare qualcosa di serio. Il principe Andrei sopportava allegramente i motteggi del padre sugli uomini nuovi e con visibile piacere lo stuzzicava a discorrere e lo stava a sentire. Il principe Andrei partì la sera del giorno dopo. Al momento di partire e di cambiar vita, le persone capaci di riflettere sulle loro azioni si trovano di solito in una disposizione d'animo seria. In quegli istanti si verifica per lo più il passato e si fanno piani per l'avvenire. Il viso del principe Andrei era molto pensoso e commosso. Sia che per lui fosse terribile andare alla guerra o triste abbandonare la moglie, forse l'una cosa e l'altra, certo è che, non volendo essere veduto in quella disposizione d'animo, appena sentì dei passi nell'anticamera, sciolse in fretta le mani, si fermò presso la tavola e prese la sua espressione abituale, calma e impenetrabile. Erano i passi pesanti della principessina Maria. «Mi hanno detto che hai dato l'ordine di attaccare», disse tutta affannosa, «e io, che avevo ancora tanta voglia di parlare con te a quattro occhi. Dio sa per quanto tempo ci separiamo di nuovo. Non ti dispiace che io sia venuta? Tu sei molto cambiato, Andriuscia», aggiunse, quasi a spiegare quella domanda. E nel pronunziare il nome Andriuscia sorrise. Si vedeva che le riusciva strano pensare che quel bell'uomo severo fosse lo stesso Andriuscia, il magro ragazzo birichino che era stato suo compagno d'infanzia. «E dov'è Lise?» egli chiese, rispondendo soltanto con un sorriso alla sua domanda. «Era così stanca che si è addormentata in camera mia, sul divano. Ah, André, che il trésor de femme vous avez. È proprio una bambina, una cara, allegra bambina». Il principe Andrei taceva, ma la principessina notò l'espressione ironica e sprezzante che gli apparve in viso. «Ma bisogna essere indulgenti verso le piccole debolezze. Chi non ne ha, André? Non dimenticare che è stata educata ed è venuta su in un ambiente mondano. E poi la sua posizione adesso non è rosea. Bisogna mettersi al posto degli altri. Tu comprendre, se tu pardonné. Capire tutto significa perdonare tutto. Qui è come un'anticipazione di quello che poi sarà il percorso spirituale del principe Andrei, che Tolstoi ci racconterà più avanti. Pensa che cos'è per lei, poveretta, dopo la vita alla quale era abituata, separarsi dal marito e rimanere sola in campagna e nel suo stato. È molto penoso per una donna giovane e mondana seppellirsi negli anni migliori in campagna, sola, perché il babbo è sempre occupato e io, tu mi conosci, sai come sono povera di risorse per una donna abituata alla migliore società. Solo Mademoiselle Bourienne... Non mi piace punto la vostra Bourienne, disse il principe Andrei. Ah no, è una ragazza molto cara, è buona e soprattutto è disgraziata. Non ha nessuno, nessuno. Mon père l'ha raccolta orfana e lei è molto buona. E poi mon père ama il suo modo di leggere. La sera gli legge ad alta voce, legge benissimo. André, disse timidamente dopo un minuto di silenzio, ho una preghiera da farti. Promettimi che non rifiuterai. Promettimi, Andriuscia, disse, ficcando la mano nella borsa e tenendo una cosa fra le dita. Egli ti salverà e ti farà misericordia e ti attirerà a sé, perché in lui solo è la verità e la pace, disse ella con voce tremante di commozione, tenendo a due mani, con gesto solenne, davanti al fratello, una piccola, antica immagine ovale del Salvatore, con la nera effigie incastrata nell'argento e appesa a una catenina anch'essa d'argento, minutamente lavorata. Si fece il segno della croce, baciò l'immagine e la porse ad Andrei. Tacquero. Come ti dicevo, Andrei, sii buono e generoso, come sei sempre stato. Non giudicare severamente Lise, ella cominciò. È tanto carina, tanto buona, e la sua situazione ora è molto penosa. Mi pare di non averti mai detto, Masha, di aver rimproverato qualcosa a mia moglie, o di essere scontento di lei. Perché mi dici tutto questo? Io non posso rimproverare nulla a mia moglie, e io stesso non posso rimproverarmi nulla nei miei rapporti con lei. Ma se vuoi sapere la verità, vuoi sapere se io sono felice? No. Se è felice lei? No. Perché? Non lo so. E dicendo questo, egli si alzò, si avvicinò alla sorella e, chinandosi, la baciò in fronte. I begli occhi di lui sfavillarono di un insolito splendore di bontà e di intelligenza. Egli però non guardava la sorella, ma, al di sopra della sua testa, guardava nell'oscurità della porta. Andiamo da lei. Ci dobbiamo dire addio. Oppure vada sola e svegliala, e io verrò dopo. Il principe Andrei era stato chiamato nello studio del padre, che voleva salutarlo da solo a solo. Tutti aspettavano che venisse. Quando Andrei entrò nello studio, il vecchio principe, con gli occhiali da vecchio e la veste da camera bianca, con la quale non riceveva mai nessuno tranne il figlio, era seduto alla sua tavola e scriveva. Si voltò. «Te ne vai? Te ne vai?» E si mise di nuovo a scrivere. «Sono venuto a salutarvi. Baciami qui». E gli offrì la guancia. «Grazie». «Grazie. Perché mi ringraziate?» «Perché non perdi tempo e non ti attacchi alle sottane di una donna. Il servizio prima di tutto. Grazie, grazie». Ed egli continuò a scrivere, in modo che l'inchiostro schizzava via dalla penna che strideva. «Se hai qualcosa da dirmi, parla. Posso far tutte e due le cose insieme», aggiunse. «Volevo parlarvi di mia moglie. Ho rimorso di lasciarvela così sulle braccia». «Sciocchezze. Di quel che ti occorre». «Quando verrà per mia moglie il momento del parto, fate venire un ostetrico da Mosca, che sia già qui». Il vecchio principe si fermò e, come se non capisse, fissò gli occhi severi sul figlio. «Io so che nessuno può aiutare se la natura non aiuta», disse il principe Andrei, evidentemente confuso. «Sono d'accordo che su un milione di casi uno soltanto è disgraziato, ma questo è il suo e mio desiderio. Le hanno raccontato tante cose, ha fatto dei sogni e ha paura». lo farò», disse il vecchio principe, seguitando a scrivere. «Lo farò». Egli tracciò la sua firma e a un tratto si volse rapidamente al figlio e si mise a ridere. «Cattivo affare, eh?» «Che cattivo affare, babbo?» «Tua moglie», disse laconicamente e in modo significativo il vecchio principe. «Non capisco», disse il principe Andrei. «Ma non c'è che fare, amico mio», disse il principe. «Sono tutte così, non te ne liberi più. Non aver paura, non lo dirò a nessuno, ma lo sai anche tu». Gli prese la mano nella sua, piccola e ossuta, la scosse, guardando dritto in viso al figlio, coi suoi occhi acuti che sembravano vedere attraverso le persone, e rise di nuovo del suo riso freddo. Il figlio sospirò, confessando con quel sospiro che il padre lo aveva capito. «Di tua moglie non ti dare pensiero. Quello che sarà possibile fare, sarà fatto. E ora ascolta, dai questa lettera a Kutuzov. Gli scrivo che ti metta in buoni posti e non ti tenga a lungo come aiutante di campo. È una funzione maledetta. Digli che mi ricordo di lui e che gli voglio bene. E scrivimi poi come t'avrà ricevuto. Se sarà buono, seguita a servire. Il figlio di Nikolaj Andreevich Balkonski non servirà mai nessuno per grazia. E ora addio. E diede la mano da baciare al figlio e lo abbracciò. Ricordati una cosa sola, principe Andrei, che se ti uccidono, per me vecchio, sarà un gran dolore. Tacque all'improvviso e poi, tutta un tratto, continuò con voce acuta. Ma se apprendessi che non ti sei comportato come un figlio di Nikolaj Balkonski, io mi vergognerei. Stridette. Questo avreste potuto fare a meno di dirmelo, babbo, disse sorridendo il figlio. Il vecchio tacque. Volevo ancora pregarvi, continuò il principe Andrei, se mi uccideranno e avrò un figlio, non lo fate allontanare da voi, come vi dicevo ieri, che cresca in casa vostra, ve ne prego. Non debbo darlo a tua moglie, disse il vecchio e rise. Essi stavano in silenzio, uno di fronte all'altro. Gli occhi acuti del vecchio guardavano fisso e dritto negli occhi del figlio. Qualcosa tremò nella parte inferiore del viso del vecchio principe. Ci siamo salutati. Va, disse egli a un tratto. Va, gridò con voce forte e rabbiosa, aprendo la porta. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.